Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Vacanze a 5 stelle in ostello. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo della trasformazione dei cosiddetti alberghi della gioventù. Un tempo rifugio per giovani senza soldi, oggi offrono servizi e comfort anche alle famiglie. Enoteche, addio. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi dei nuovi negozi cult del vino nel mondo. Per il focus sui trend invece parliamo di Urban Playground, quando la città diventa uno spazio giochi. Iniziamo però come sempre con le notizie e curiosità della settimana. Cresce anche in Italia il mercato dei libri elettronici. Si terrà dal 3 al 5 marzo 2011 a Rimini eBook Lab Italia, prima manifestazione dedicata all'editoria digitale. Il fenomeno eBook rappresenta nel nostro paese l'1,5% del catalogo e l'8-9% delle novità editoriali in commercio. Nasce il sandwich gelato da passeggio al parmigiano reggiano e prosciutto di Parma. Pane bianco, maionese all'olio di nocciole e verdure candite, la ricetta è firmata dallo chef Igor Macchia e dall'artista del gelato Alberto Marchetti. Cosa sono i cosmetici? Cosa contengono? Com'è garantita la loro sicurezza? Sono alcune delle domande alle quali vuole rispondere il sito abccosmetici.it. Promosso da Unipro, l'Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche, vuole incentivare un uso consapevole e un consumo informato. È stato inaugurato in Germania il primo villaggio residenziale pensato e costruito su misura per la terza età. Al Seniorenpark di Meppen, nel nord-ovest del paese, ci sono casette a un solo piano, viali nel verde, servizio di pronto intervento 24 ore su 24, marciapiedi senza rialzo e nessuna barriera architettonica. E non si tratta di un rifugio per ricconi. I prezzi sono da pensionati. Si terrà il 24 e 25 luglio a Bardolino, sul Lago di Garda, la quinta edizione dell'Italian Body Painting Festival, evento interamente dedicato alla pittura del corpo. Appuntamento clou, il concorso, che vedrà sfidarsi i migliori artisti nazionali ed internazionali. Da Piero Chiambretti a Luca Argentero, da Gian Turturro ad Alessandro Bergonzoni, sono solo alcuni dei sostenitori illustri del progetto benefico I Love Bra. Il ricavato della t-shirt creata per l'iniziativa sarà interamente devoluto a favore del reparto oncologico dell'ospedale della cittadina piemontese, nel cuore delle Langhe Roero. Il progetto invita tutti coloro che la acquistano a farsi fotografare in giro per il mondo e a inviare l'immagine all'indirizzo love@spaziobra.it. Vietato fumare sul bagnasciuga di Coney Island o sotto gli alberi di Central Park. Potrebbe presto essere una realtà. Il sindaco di New York, Michael Bloomberg, ha aperto la strada al bando delle sigarette nei parchi e sulle spiagge della Big Apple. New York ha 20 km di spiagge e oltre 1700 km quadrati tra parchi e giardinetti per bambini. La borsa della spesa. Tempo di vacanze o perlomeno di weekend fuori città un po' per tutti, oggi vogliamo parlare della riscoperta degli ostelli, anche nel nostro paese. Esempio perfetto della tendenza luxury, dall'unione di low come low cost e luxury come lusso, complice la crisi, anche in Italia gli ostelli cambiano faccia e clienti. Non più solo saccopelisti. Gli ostelli si rifanno il look e diventano meta di viaggiatori esigenti e famiglie. Lontani i tempi delle camerate, oggi gli alberghi della gioventù offrono stanze da 2 a massimo 6 posti letto, bagno in camera e comfort da hotel, come la connessione internet e il ristorante interno. Gettonatissimi all'estero, gli ostelli stanno recuperando terreno anche in Italia. All'insegna di un turismo low cost, il costo delle stanze va dai 15 ai 25 euro, ma di qualità. Fortezze, antichi manieri, ville d'epoca e persino ex carceri come location, spesso in borghi suggestivi. Alcuni si fregiano anche di piscine, solarium, giardini e terrazzi. Le strutture più inadeguate, però, sono rimaste nelle grandi città come Roma e Milano. spiccano invece l'ostello di Bergamo, quello di Assisi, di Cagliari e di Cortona, all'estero quelli di Rotterdam, Valencia, Vienna e Berlino. Oggi molti in Italia sono all'altezza dei più belli in Europa, ci dice Anita Baldi, segretario nazionale dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, l'associazione che al costo di 3 euro offre la tessera per accedere a tutta la rete nazionale ed estera. C'è in atto un rilancio secondo quello che sono le esigenze dei giovani attualmente, cioè gli ostelli con più comfort, con stanze con bagno privato, senza però dimenticare quello che è la filosofia degli ostelli per la gioventù, cioè dei centri di aggregazione giovanile per eccellenza. È cambiata l'immagine degli ostelli, si sono adeguati, stiamo adeguando le strutture italiane, quelle già esistenti, le stiamo adeguando a quelli che sono gli standard europei, che sono standard medio-alti, e le nuove sono di standard veramente elevato. Le new entry sono all'altezza della situazione, anche tra i più belli d'Europa, devo dire. Il raffronto e la competizione ci ha portato a dover comunque cambiare le strutture, è stato per noi un motivo di autoanalisi e quindi di rilancio e di adeguamento delle nostre strutture. Nella cultura italiana non esistevano quasi, adesso sono utilizzati da molte famiglie giovani e soprattutto anche da molti giovani italiani, e questo ci fa immensamente piacere. Gli ostelli potrebbero essere un'ottima soluzione per le gite scolastiche, viste le polemiche sugli esborsi eccessivi per le famiglie. In Germania, dove nel 1909 sono nati i primi alberghi della gioventù, hanno fatto una legge che incentiva le scuole ad usarli. Speriamo di arrivarci, devo dire che in questo momento c'è molta sensibilità da parte sia del Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale abbiamo sottoscritto ormai da 2 anni un protocollo d'intesa per la carta Io Studio, per facilitare il movimento dei giovani attraverso gli ostelli, e freschissimo è il protocollo d'intesa col Ministero della Gioventù e il Ministero del Turismo, che appunto hanno riconosciuto negli ostelli per la gioventù dell'AIG dei centri di aggregazione giovanile per eccellenza, quindi si creeranno all'interno dei laboratori dei momenti di incontro molto importanti per i giovani. Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, parliamo delle nuove tipologie di negozi del vino. Il vino è un altro settore che sta incrementando nelle vendite grazie a negozi specializzati che si stanno moltiplicando, soprattutto nelle grandi città europee. In questa puntata di Essere Avere prenderemo in considerazione Lavinia, una catena spagnola ormai presente oltre che in Spagna anche in Francia, Svizzera, Ucraina, e Galerie Lafayette. Lavinia a Madrid, nel suo flagship, raggiunge addirittura i 1300 metri quadri con 12.000 referenze, davvero un'enormità. Oltre ai vini vende anche la cultura del vino e ovviamente per chi vuole degustare con calma lo sterminato catalogo propone anche un ristorante, tutt'altro che easy. La sua carta di fedeltà costa 15 euro, come quella della Fnac, ma dà diritto a uno sconto del 5% sull'intero assortimento. Un giovedì al mese, per le degustazioni guidate, lo sconto arriva addirittura al 10%. Le Galerie Lafayette di Parigi, che del reparto del vino hanno fatto un vero e proprio caposaldo commerciale di attrazione turistica, non potevano essere da meno. Nella sede dietro l'Opéra, una vera e propria cattedrale del consumo, hanno aperto addirittura Bordeaux Tech, un negozio dedicato esclusivamente al Bordeaux. Si sviluppa su 250 metri quadri con 10.000 bottiglie in assortimento divise in 620 etichette con prezzi che partono da 3,9 euro fino a 20.000 euro per il Mouton Rothschild del 1945. Ma se proprio li volete, il sommelier vi indicherà 24 millesimati dal 1989 al 2006 del Sauternes Château de Chem. Insomma, un cuore pulsante del Bordeaux e dell'immagine francese attivo a 360 gradi. A quando qualcosa di simile a Barolo, Siena o a Montalcino? Essere e avere. But I'm afraid. ricordate il video di questa canzone di Madonna, Jump, consacrò il free running, quel mix di acrobazie e sport tra i palazzi, le scale e le inferriate delle città. Evoluzione moderna del parkour, il segreto del free running, dice il suo fondatore, quel Sébastien Faucon, protagonista del video di Madonna, è imparare a vedere la città, il mondo, come un grande parco giochi. Urban Playground è proprio il tema del focus sui trend di questa settimana in compagnia, come sempre, della nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno a tutti. Urban Style era il tema della prima puntata di questa stagione. Con Urban Playground vogliamo in qualche modo chiudere il cerchio, parlando cioè di tutte quelle trasformazioni negli stili di vita delle nostre città, all'insegna però del gioco e del divertimento. Sport urbani sì, ma anche arti di strada e social game. Patrizia. Sì, le città contemporanee sono degli universi pieni di segni, di marcature, di esperienze, di pratiche sociali, soprattutto comunitarie, e tutto questo si traduce in una variegata fenomenologia espressiva che va appunto dai nuovi sport urbani come il parkour appena citato, al bike polo fatto con le biciclette a scatto fisso, ma anche all'urban caving e all'urbex, cioè tutte quelle infiltrazioni in zone off limits tipo cantieri, reti fognarie, scavi, palazzi abbandonati che sono al limite della legalità, fino alle incursioni diciamo un po' dadaiste nelle strade degli street artist, dei public artist, e qui andiamo dai graffiti agli sticker, agli stencil, ma anche a performance tipo i finti monumenti, le finte installazioni o attività molto ludiche apparentemente insensate come i rivestimenti a maglia, l'urban knitting, quindi il tricottaggio fatto a mano che ricopre alberi, pali della luce, transenne, statue, eccetera. E poi abbiamo anche delle pratiche interessanti che vanno dalla controcomunicazione creativa, per esempio piantare gli alberi davanti ai billboard pubblicitari, alle affiche, ai grandi cartelloni lungo i viali per coprirli agli occhi degli automobilisti, oppure alle moltissime forme di guerriglia urbana come il seed bombing per far fiorire le aiuole e i suoli residuali, ma ancora i picnic nei parcheggi, i solarium nelle piazze o il fenomeno anche del situazionismo gastronomico di ristoranti clandestini con itinerari e location improbabili. Dunque la città è questo panorama ricchissimo di esperienze che si possono notare, e i nuovi sport urbani sono una delle tantissime espressioni di quello che è un uso sempre più personale, privato, si può dire, degli spazi pubblici. Come dire, la città diventa anche il mio campo di gioco, la mia palestra, il luogo in cui mi posso allenare e mi posso divertire, quindi diventa alla lettera un campo di gioco, un terreno. Il parkour, citato in apertura, che è non solo una disciplina sportiva da fare in città, ma anche una filosofia di vita quotidiana, tra l'altro non competitiva, ha fatto proseliti in tutto il mondo. È scritto come percorso, parkour in francese, ma con la K, ed è appunto questa arte dell'attraversamento, dello spostamento in città nel modo più efficiente possibile. Per efficiente i traceur, ovvero i creatori di percorsi, intendono un modo sicuro, semplice e veloce. Non sono mancati in questi anni tra l'altro gli incidenti. In ogni caso i praticanti del parkour, in modo creativo e molto atletico, con corse, salti, volteggi, cadute, arrampicate che mettono a dura prova diciamo la resistenza e la performance fisica, superano le barriere e gli ostacoli che incontrano sulla loro strada tracciata. Sono moltissimi i brand appunto che in questi anni hanno associato il loro immaginario a questo mondo così alternativo e anche così capace di attrarre l'attenzione dei giovani, da Honda a Red Bull, a Killer Loop, a Adidas, a Vibram e a Vigorsol. Sono moltissimi anche i videogiochi, appunto da Free Running a Tomb Raider a Prototype, che in questi anni hanno riprodotto nei movimenti dei personaggi proprio le acrobazie del parkour e queste apparentemente impossibili acrobatiche traiettorie. Un altro sport che ha fatto della città il suo terreno è il golf, si chiama Urban Golf, naturalmente è nato ad Amburgo negli anni 90 e oggi si gioca in moltissime città, in genere nelle zone meno trafficate. Le palline sono diverse da quelle classiche, meno dure per evitare danni a persone e a cose durante i tiri. le buche diventano di volta in volta un tombino, un oggetto da colpire come una saracinesca, un semaforo. Alcuni tornei sono autorizzati, ma moltissime di queste pratiche individuali sono al limite della legalità. E la cosa interessante è che la dimensione ludica, aggregativa, prevale evidentemente sulla tecnica e sulla competizione. C'è già anche la versione virtuale per cellulari Android. Da New York a Londra, Berlino, Copenaghen spopola, lo accennavamo poco fa, il bike polo, variante urbana dello sport preferito dai lord inglesi, il polo, ma con le biciclette al posto dei cavalli. A Milano il ritrovo è tutti i martedì in pieno centro, Piazza San Fedele. Ne abbiamo trovato traccia su YouTube. È un po' come il polo dei cavalli, però invece di avere il cavallo c'è il cavallo di ferro della bici. Questo gioco è facile, sono due squadre, 3 contro 3, mazze da polo, bici a scatto fisso, le due porte e via. Si possono mettere giù i piedi se non devi toccare in centro ogni volta e poi puoi ritornare in gioco e non puoi tagliare la strada. I contatti fisici sono messi, sono bici bici, corpo corpo e mazza mazza. È divertente, si ritorna un po' bambini, non lo so, è divertente, bello sport. 3, 2, 1, via! Patrizia, molto divertente, lo abbiamo sentito. Invitiamo tutti, tra l'altro, ad andare a vedere i vari video che circolano in rete. Basta digitare bike polo su YouTube. Divertenti anche gli Urban Games, i giochi da fare in città come il celebre Pac-Man Manhattan o Monopoly City Streets. Sì, gli spazi urbani si trasformano sempre più in luoghi di aggregazione estemporanei in cui giocare. E il fenomeno dell'urban game, del social gaming, cioè dei videogiochi elettronici riprodotti nelle strade, è ormai un'altra pratica metropolitana sedimentata e molto interessante. Pac-Man Manhattan, che citavi, appunto trasforma New York, la città fisica, nel labirinto del celebre nostalgico videogioco Pac-Man. I giocatori, dotati di cellulare con navigatore, corrono per le strade con i costumi colorati dei fantasmini che rincorrono Pac-Man, quindi anche una sorta di cosplaying molto divertente, e sono guidati in tempo reale dai giocatori online che sullo schermo a casa, su una panchina, ovunque, giocano contemporaneamente la partita digitale e quella per strada. Stesso obiettivo e caso simile è Treasure World, un videogioco sviluppato da Aspyr che trasforma di nuovo i videogiocatori in cacciatori di un tesoro. Tutto questo parte da un'attività che si chiama World Driving, cioè l'intercettazione di reti wifi che si fa in automobile, in bicicletta o a piedi con un laptop o uno smartphone, e Nintendo ha trasformato questa pratica in un vero videogioco. Gli esempi sarebbero moltissimi, appunto citavi Monopoly City, dove il vecchio caro Monopoly si incrocia con le mappe di Google. La cosa da sottolineare è che queste attività ludiche che integrano attività online con attività offline sono possibili e sempre più diffuse anche grazie alle nuove tecnologie di georeferenziazione o geotagging, che consentono appunto di correlare il territorio fisico con le mappe digitali molto velocemente, e quindi di riconsiderare questo movimento online offline che riunisce delle comunità. Ci sono però anche più semplici trasposizioni dei must del gioco da tavolo, come Risico, Trivial Pursuit eccetera, e di grandi classici come gli scacchi e la dama, che vengono riproposti semplicemente in versione gigantesca, con questa riscoperta anche un po' nostalgica di quei divertimenti anche un po' più ingenui, magari che ci riportano alla nostra infanzia, come Indovina chi e Forza 4. È interessante in questo senso anche l'esperimento del designer Bruno Taylor, che ha trasformato una stazione degli autobus di Londra in un mini parco giochi, installandovi un'altalena. Un gesto simbolico all'interno di un progetto più ampio, anche concettualmente, che mira a riportare il gioco, ma il gioco quello semplice, così come lo sport, negli spazi pubblici cittadini, ma non costruendo nuove strutture, ma utilizzando utilizzando gli elementi architettonici già esistenti, quindi una sorta di low-fi architecture per integrare delle porzioni di parco giochi, come può essere un'altalena, tra le strutture cittadine. Ed è simile l'esperienza a Madrid dell'associazione Street Games, che dall'anno scorso interviene negli spazi pubblici attraverso l'introduzione di piccole installazioni sportive e cerca di recuperare questi spazi e abilitarli alla pratica sportiva per tutti, dandogli un nuovo valore d'uso, naturalmente negoziato con le diverse proprietà. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo nel mondo su Urban Playground e dintorni? In linea c'è, come sempre, la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Bentornata, Alessia. Grazie, un saluto a tutti. Lo diceva prima anche Patrizia, grazie alle nuove tecnologie locative, le città sono diventate anche il territorio di una caccia al tesoro globale. Questa nuova pratica, a metà tra uno sport e un'avventura urbana, si chiama geocaching e consiste nel cercare dei contenitori nascosti nel mondo dai giocatori, i geocacher appunto. Per partecipare bisogna iscriversi online su uno dei siti dedicati, ce ne sono anche di italiani, e su cui vengono pubblicate le coordinate georeferenziate di ogni contenitore nascosto, accompagnate da eventuali suggerimenti. I contenitori possono avere le dimensioni più svariate e contenere diversi tipi di piccoli oggetti, di solito di nessun valore. Tutti però contengono un logbook, una sorta di quadernetto o un foglietto in cui ogni giocatore annota il suo ritrovamento. Regola vuole poi che i giocatori possano prendere dal contenitore un oggetto a scelta, lasciandone però un altro in cambio, di modo che il contenuto delle cache, questo è il termine tecnico dei contenitori, cambi ciclicamente. Le varianti del gioco poi sono tante, ad esempio non c'è limite alla fantasia per camuffare il proprio contenitore per renderne più difficile il ritrovamento, oppure alcuni degli oggetti contenuti hanno un ruolo speciale e devono essere spostati di contenitore in contenitore per un preciso scopo, per esempio visitare una o più città. Grazie Alessia. Patrizia, in conclusione, come per la fan theory di cui abbiamo parlato più volte, il gioco, il divertimento possono essere la chiave del cambiamento, in quel caso per un cambiamento di tipo sociale, in questo per la vivibilità nelle città. Direi che il minimo comune denominatore delle pratiche, di tutte le pratiche di appropriazione dello spazio pubblico urbano e del suo uso inedito, che abbiamo visto può essere tra arte, divertimento, comunicazione, consumi, anche politica, è appunto la tonalità ludica, la jouissance, alla maffesolie, quella predisposizione festaiola molto propulsiva che muove individui e gruppi. E forse si configura anche una nuova antropologia urbana in questo senso, che dentro questa ricorsività esperienziale anche dell'online e dell'offline che abbiamo molto sottolineato può fondare una nuova premessa espressiva per molte subculture giovanili. Con la puntata di oggi finisce questa nuova stagione di Essere Avere. Da domenica prossima vi terremo compagnia con il meglio di una selezione delle puntate andate in onda in questi mesi. Poi da settembre ripartiremo con nuovi temi e nuovi approfondimenti. Oggi allora ci prendiamo qualche secondo in più per i ringraziamenti di rito. Grazie a te Patrizia per l'analisi puntuale e stimolante come sempre. Ringrazio anch'io tutti. Grazie ad Alessia Zampano, Elena Marinoni, Luigi Rubinelli e a chi rende possibili dal punto di vista tecnico le nostre puntate, vale a dire Valeria Bernardi, Filippo Aureggi, Carmelo Lauricella, Pietro Lacorte, Peter Bescapè, Fabio Cantadori, Paolo Corleone, Roberto Scaltritti. Last but not least, i nostri speaker Alessandra De Luca, Mario Nutarelli e Francesco Mei. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.